avranno tribolato anche loro, perché dentro di noi, insieme con tante belle cose buone, ci sono anche certe cose strane, certe tendenze, certi vizi, certe brutte voglie. Hanno combattuto anche loro, ma hanno combattuto volentieri. Come combatte l'alpinista che vuol raggiungere delle vette, e a volte si sbuccia le mani, si sbuccia le ginocchia, e a volte può prendere anche un po' di insolazione quando va su, o se nevica può assiderarsi anche qualche dito. Sì, ma volentieri. I santi hanno camminato come noi e hanno consumato la vita in cerca della gioia, sborsando prontamente qualunque prezzo. Il più alto. I martiri sono milioni. Solo il nostro Papa ne ha messi sugli altari in questi ultimi anni centinaia di martiri. Tutti morti nel tentare l'ultimo prezzo, nello sborsare l'ultimo prezzo, pur di comperarsi. Una vita interminabile, la vita qua giù è terminabile. Siamo tutti nati a stazione Termini, che come si nasce già ci si incammina verso il termine. Dio abita una vita interminabile e quindi le nostre gioie qua giù sono sempre terminabili. Quella di Dio è interminabile. I santi hanno camminato questa strada, pronti a sborsare qualunque prezzo. Fateci la prova anche voi. Esempio, capitato a me, capitato a tanti, che me l'hanno poi confidato. Nei giorni in cui erano su di spirito, su di morale, si dice anche su di corda, su, si sentivano capaci di fare qualunque sacrificio, qualunque grattacapo, qualunque fastidio, qualunque favore, qualunque lavoro, qualunque rinuncia, perché si sentivano su di giri, su di morale, su di corda, su di tacco. Ah, ecco i santi, gente che è sempre su di tacco, su di morale, su di corda, su di giri. Perciò i sacrifici li fanno che ci trovano gusto, gusto. È questa la vita cristiana, la morale, l'etica cristiana. Questa l'ascesi cristiana, questa la mistica cristiana. Questa essere sempre su di giri, cosicché questo sentiero arduo, aspro, sia proprio come un ascensore. Non si fatica nell'ascensore, vero? Si sale, si sale, si sale. Basta essere su di giri. È una legge psicologica prettamente cristiana questa. Sì, sempre su di giri, su di tono. Fa che il tuo motore canti e vedrai quanta strada saprai fare e quanti pesi saprai portare sulle spalle, altro che uno zaino di 4-5 kg, uno zaino anche di 15-20 kg, e quanto potrai fare ancora, e come sarai capace di aiutare gli altri a portare il loro bagaglio, purché il tuo motore canti, sia su di giri. Una delle prime cose che ho imparato facendo il curato qui a Bosco, qualcuno mi pigliava su a volte perché costava anche parecchio andare giù con la corriera a quel tempo. E allora dice, Don Igino, se lei si fa trovare a quel punto là, andiamo su insieme con la mia macchina. E ricordo quell'autista che mi ha detto, arrivato a Stallavena, adesso Don Igino, bisogna che il mio motore canti. Cosa vuol dire? Io non sapevo. Se voglio affrontare la salita che da Stallavena mi porta a Rosaro, senza fermarmi, bisogna che il mio motore canti. Ah, anche il motore deve cantare. E dopo affronta la salita che non ci sono problemi. Ah, e io ho pensato, e lo penso tuttora con voi, la strada che conduce in alto sale. Chiaro, sale, induce in alto. E bisogna affrontarla col motore su di giri. altrimenti ti fermi. Bisogna che il motore canti. Ecco che cosa ci insegnano i santi, martiri e non martiri. I santi ci insegnano che la salita che conduce al regno di Dio, o regno dei cieli, bisogna affrontarla su di giri, su di morale, su di corda. E questo fa venire in mente proprio gli scalatori. Gli scalatori vanno a scalare le vette più ardue con la corda. Non si arrischiano su quelle rocce senza la corda, su di corda. Senso morale vuol dire ottimisti, sereni, contenti. Canta che ti passa, bevi un gotto e va con Dio. Gente allegra, ciel l'aiuta. Sono tutti proverbi nostri italiani, veneti, puro sangue, bellissimi. La tristezza uccide l'anima, la malinconia uccide l'anima, ma la gioia, l'allegria, la letizia, col contento, ce l'aiuta. Ecco che cosa ci insegnano i santi, santi laici, santi sacerdoti, santi vescovi, santi papi, santi contadini, ciabattini, lavoratori della pietra, pittori, medici, avvocati. Che moltitudine di persone che erano sempre su di giri.